coraggio, conforto, contemplazione. Orizzonti Cristiani. Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme. Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali proposto da Don Ferruccio Bortolotto. Amici della Radio Vaticana, un caro saluto da Don Ferruccio. Celebreremo la quarta domenica di Avvento. Ormai il cammino verso il Natale è compiuto e siamo già rivolti con gioia ad attendere quel mistero di pace, di serenità che la vita del piccolo Gesù, del bimbo di Betlemme, ci offriranno. L'orazione colletta di questa domenica è la preghiera che conclude l'Angelus, che quindi abbiamo nelle orecchie, che conosciamo, a cui siamo abituati, pensando al Santo Padre che ogni domenica prega questa antica invocazione della Vergine Maria. E i temi biblici che ci vengono presentati in questa domenica sono innanzitutto quello della rivelazione. Dio che parla a modo umano, che si rivela in modo che gli uomini possano comprendere il suo messaggio e possano arrivare alla contemplazione di Lui, all'incontro con Lui. Il Signore che irrompe nella storia e che prepara la sua venuta. Nella prima lettura, infatti, leggeremo di Acaz che riceve dal profeta Isaia la profezia che la Vergine, la sua sposa, concepirà un figlio e dovrà dare il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Nella pagina di Vangelo, invece, l'annuncio dell'angelo che l'evangelista Matteo ripropone non è alla Vergine Maria, ma è a Giuseppe, ed è nel sonno, mentre sogna. A Giuseppe viene detto che colui che nasce da Maria è il Salvatore, dovrà dare il nome Gesù. Quindi Emanuele, Dio con noi, la promessa dell'Antico Testamento che si compie in Gesù, Dio salva. Ma anche la seconda lettura è interessante perché ci mostra l'Apostolo Paolo che ha ricevuto una rivelazione particolare. Se gli altri apostoli sono stati scelti direttamente da Gesù, possiamo dire che la scelta, la chiamata all'apostolato di Paolo è una chiamata per via carismatica, per via rivelativa, e quindi l'incontro anche che segnerà la vita di Paolo con il Cristo che si identifica con la Chiesa, che gli chiede perché mi perseguiti, in un certo senso entra dentro questo grande tema di Dio che si comunica all'uomo, parla con lui e gli chiede di seguirlo nell'obbedienza della fede. Un altro grande tema, credo, a cui siamo chiamati a riflettere in questa domenica è quello della gratuità. L'amore è vero se non vuole nulla in cambio. L'amore è vero se è la sintesi del desiderio e del compiacimento, della gioia, dello stare insieme. E la gratuità, l'uscire da noi stessi, il compiere un servizio, il metterci a disposizione di Dio, ci fa entrare dentro quella che è la logica della vita, della pienezza della vita. Infatti noi contempliamo sia nella prima lettura come nella pagina di Vangelo un annuncio di vita e di fecondità. La Vergine concepirà un figlio e devi chiamarlo Emanuele, dirà Isaia ad Acaz, così a Giuseppe l'angelo dirà della grandezza di Gesù il Salvatore, la vita, la fecondità, la paternità e la maternità come segno della bontà di Dio in mezzo a noi. Ancora mi permetto di suggerire un altro tema, che è quello delle scelte di Dio. Le scelte di Dio sono rivelazione. Paolo, che è scelto come apostolo e come servo, schiavo addirittura nel testo greco del Vangelo, Giuseppe, Maria, sono scelti da Dio e le loro persone, e attraverso le loro persone si compie un messaggio di rivelazione e di elezioni. Ma nel battesimo ciascuno di noi è scelto, ciascuno di noi è accolto dall'amore di Dio. Nel battesimo possiamo in un certo senso entrare, se ci lasciamo condurre appieno dallo Spirito, dentro quella che è la gratuità, la grazia dell'amore di Dio che è riversato dentro i nostri cuori. Infine, vorrei riflettere con voi sul grande tema dell'accoglienza. Accogliere Gesù è sinonimo di generare la vita. Accogliere il Signore Gesù vuol dire entrare dentro la logica della croce della risurrezione, perché mai possiamo dividere il risorto dal crocifisso. E allora, più che una disquisizione teologica, vorrei con voi provare a pensare ad alcuni atteggiamenti concreti con cui prepararci ad accogliere il Signore Gesù per obbedirgli, ovvero mossi dall'ascolto della sua parola, ob audito per l'ascolto di lui, incominciamo a compiere dei gesti nuovi di attenzione a noi stessi e agli altri. Il primo invito: perché non proviamo a custodire il silenzio in questi giorni prima del Natale? È commovente leggere negli scritti di Charles de Foucault la sua contemplazione nei confronti di Maria e Giuseppe che attendevano la manifestazione del bimbo Gesù nel silenzio e lo custodivano finché non è apparso alla luce a Betlemme. Custodire il silenzio, quindi. Poi, perché non intensificare l'ascolto che Dio che parla nella lettura orante della Bibbia, nella frequentazione delle scritture, nel canto delle profezie di questo tempo di avvento, della novena di Natale? Ancora, chiediamo il dono della misericordia per noi stessi, per le persone magari dalle quali a cui abbiamo ricevuto delle offese. Accostiamoci al sacramento della riconciliazione. Questo sacramento con certezza ci aiuterà ad accogliere Dio nella nostra vita. Ancora, perché non proviamo a rinunciare a qualcosa, ma non di superfluo, qualcosa che per noi è importante, ma non la rinuncia per la rinuncia, ma rinunciare per preparare la festa, per accogliere, per fare spazio non soltanto agli ospiti, ai nostri familiari o ai poveri verso i quali dedicheremo delle attenzioni particolari in questo Natale, ma proprio per cogliere la presenza di Gesù che ci invita al suo banchetto. Ancora a tutti un caro augurio di un buon Natale. Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali proposto da Don Ferruccio Bortolotto. Realizzazione di Monia Parente.